Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo vivalitalia.it. Noi non sapevamo. Di Egidia Bruno e Marie Belotti. Con Egidia Bruno, canti a cura di Francesca Breschi. Se tu sai che sei stato granno, pensi che non si fessa, pensi che non si ciuoto, pensi che le cose le puoi fa. Se tu sai che sei stato granno, zinno, a così, ma si stato, pensi che puoi ancora esse, pensi che puoi esse. Se tu sai che ieri, pensi che sei oi, e pensi che puoi esse crai. Ma se tu ste cose non ne sai, se tu non sai che sei stato granno, e certe volte zinno, e certe volte a così, ma principalmente se non sai che sei stato, perché nessuno t'ha raccontato, nessuno t'ha imparato, perché la storia non t'ha detto com'è stato veramente quello che è stato. E allora, tu pensi che sei fessa, pensi che sei ciuoto, pensi che le cose non ne sai fa, non ne puoi fa, ma non dai permette manco di te insonna. Ma dove i? Ma che puoi fa? Po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po. Garibaldi fu ferito ad una gamba. Garibaldi che comanda i suoi soldati. Se volete sapere, anzi no, meglio, se volete vedere il foro della pallottola che ferì la gamba di Garibaldi, dovete andare al Museo del Risorgimento a Roma, dietro all'altare della patria. Ci sono armi, cimeli, pezzi di artiglieria, divise, lettere autografe e a un certo punto c'è una teca con lo stivale di Garibaldi col foro della pallottola qua, sul lato. Sì, lo stivale di quando fu ferito sull'Aspromonte. Pare impossibile che l'eroe dei due mondi fosse vulnerabile come un qualsiasi essere umano. Garibaldi, bello, biondo, capelli lunghi, barba fluente, occhi cerulei con questi poncio, che sera adesso gliel'avrebbe disegnati Missoni, un condottiero imponente. Oddio, imponente. Io qualche anno fa ho visto una statua a grandezza naturale che gli ha fatto un artista kosovaro, cioè era più piccolo di me. Poi l'aveva fatto con due zollette in mano che cercava il cavallo. Dai, c'è l'eroe dei due mondi, un eroe è grande. Garibaldi era grande, sempre a cavallo. Entrava a cavallo nelle città, nei paesi, entrava a cavallo anche in tutte le case in cui ha dormito. Ma in quante case ha dormito Garibaldi? Secondo me a un certo punto si è ritirato a Caprera, mica perché è rimasto deluso dall'unificazione. Ma no, si è ritirato a Caprera per dormire almeno due sere nello stesso letto. Comunque, tornando allo stivale, Garibaldi fu ferito. Ma da chi fu ferito Garibaldi? Allora, vediamo. Aspromonte, Calabria. No, l'andrangheta non c'era ancora, no. L'andrangheta è un prodotto del progresso, ma se voi scrivete 'ndrangheta, la parola 'ndrangheta al computer, mica ve la corregge, la riconosce, è una parola moderna. Anzi, c'è caso che il vostro computer lo distribuisca proprio l'andrangheta. No. Allora, dicevamo, Calabria, regno delle due Sicilie, l'esercito borbonico. No, E invece no. Anche se c'è una versione della canzone che fa Garibaldi che comanda i bersaglieri. È una versione che non regge. Eh no, perché Garibaldi non ha mai comandato i bersaglieri. Anzi, in quel caso fu ferito proprio dai bersaglieri. Ma com'è che sta storia? Com'è che fu ferito dai bersaglieri? Scusami, cioè, ma Garibaldi non stava dalla parte dei bersaglieri? Com'è sta storia? E com'è sta storia? È che Garibaldi aveva questa fissazione che doveva liberare Roma. O Roma o morte, per riportare a Roma a essere la capitale dell'Italia. Ci aveva già provato con Mazzini nel 49, fecero questa repubblica, poi finì come finì. E per la seconda volta, dopo aver liberato il regno delle due Sicilie dai Borbone, la strada per Roma era già spianata, dice, mi allungo, la libero. No! Arrivato a Teano, venne fermato da Vittorio Emanuele II in persona, a cavallo pure lui, e dovette dirgli, lui, Garibaldi, repubblicano, saluto il re d'Italia. Dopo 2 anni però ci riprova. Allora scende una tavolta giù in Sicilia, risale la Calabria, che poi io non ho mai capito. Ma perché per andare a Roma doveva fare tutto sto giro? Giusto perché magari voleva controllare i lavori della Salerno-Reggio Calabria. Insomma, Garibaldi voleva restituire all'Italia la sua capitale naturale. Ma a Roma chi c'è? Chi c'è a Roma? A Roma c'è il Papa. E quando c'è di mezzo il Papa, Pio IX era protetto dai francesi e dunque per non irritare Napoleone III, che ci aveva aiutato a fare l'unità, l'esercito piemontese ebbe l'ordine di fermare Garibaldi, che fu quindi gambizzato. Ma Garibaldi era cocciuto, ostinato. Sì, era nato a Nizza, ma secondo me qualche antenato calabrese doveva averlo, Non solo, Garibaldi era uno avanti. Alla completa unificazione italiana mancava non soltanto Roma, ma anche il Triveneto. Per cui lui disse, insomma, non mi fate liberare Roma, allora vado a liberare Trento e Trieste, senza aspettare la prima guerra mondiale. E quindi, 1866, terza guerra d'indipendenza, Garibaldi sta entrando a Trento trotterellando. E che succede adesso? E che adesso non dovevamo irritare i nuovi alleati prussiani che avevano appena firmato l'armistizio con gli austriaci, i quali già ci avevano ridato indietro il Veneto, per cui Trento e Trieste, nein! E quindi Garibaldi venne fermato di nuovo. Secondo la storia ufficiale, l'eroe dei due mondi rispose «obbedisco». Secondo me rispose un'altra cosa. Provò a liberare altre 2 volte Roma senza successo, dopodiché se ne andò a Caprera. È complessa questa unità d'Italia, è sofferta, articolata, mica è stata una passeggiata. Ecco, prendiamo ad esempio i padri della patria. Garibaldi, appunto, se ne va su un'isola. Mazzini, ricercato dalla polizia, muore latitante a Pisa sotto falso nome come Mr. George Brown. Cavour fa appena in tempo a pronunciare il discorso di insediamento del primo Parlamento italiano a marzo, che a giugno muore. E chi rimane? Vittorio Emanuele II di Savoia. E i Savoia, se mettono piede sul suolo italico, hanno sempre da guadagnarci. Ma magari una vittoria ballando con le stelle, un secondo posto a Sanremo con Pupo. Ad ogni modo, il sogno si era realizzato. Finalmente l'Italia non era più uno spezzatino di stati e staterelli. La Lombardia liberata dagli austriaci. Che sapete che cosa dicevano gli austriaci dei lombardi? Sono così pigri questi lombardi. È questione più di razza che non di abitudini. È una frase che è stata riciclata spesso poi in seguito. È solo cambiato l'accento e il popolo da bastonare. Vabbè, dicevamo, Lombardia libera, liberi il Granducato di Toscana e quello di Parma e Piacenza, libero il Ducato di Modena, Umbria, Romagna e Marche sottratte allo Stato Pontificio, Roma si prenderà poi nel 1870, libero il Regno delle Due Sicilie, il più grande d'Italia, da solo faceva metà paese, parte del Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, tutti questi pezzi finalmente formavano un unico Stato, finalmente l'Italia era un'unica nazione come la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, poteva sedersi a un tavolo con loro, trattare alla pari con loro, essere presa in considerazione, insomma presa sul serio, Io non mi sto riferendo ovviamente a questi ultimi anni. Insomma, l'Italia era fatta. E come disse D'Azeglio, adesso bisogna fare gli italiani. Uniti, uniti. Peppo se ne va. Un'idio per l'aria va. Se vede là in adduzzo, son capa per se ce va. Un giorno, a casa, mi rispunta fuori questo libro che avevo comprato tanti anni fa a Bologna su una bancarella, neanche mi ricordavo più di averlo. Un libro sulle brigantesse. No, nel senso di madri, mogli, figlie, sorelle dei briganti. Sì, anche quello, ma brigantesse soprattutto come femminile di briganti. Briganti. Brigantesse. Donne del sud Italia che subito dopo l'unificazione imbracciano lo schioppo e si danno alla macchia insieme agli uomini per uccidere. Nel libro ci sono anche le immagini di queste donne, col fucile in mano, con degli sguardi truci, fieri. E si chiamano Maria Oliverio, Maria Rosa Marinelli, Filomena Cianciarullo, Reginalda Cariello, Chiara Nardi, Serafina Ciminelli, Teresa Ciminelli, Nicolina Licciardi, Michelina Di Cesare, Luigia Cannalonga, Filomena Rausi, Maria Capitanio, Gioconda Marini, Mariannina Corfù, Filomena Pennacchio, Rosa Giuliani, Arcangela Cotugno, Elisabetta Blasucci, Carolina Casale, Giovanna Tito, Maria Orsola d'Acquisto, Luigina Vitale, Maria Consiglio e Filomena Di Po, Maria Pelosi, la Padovella, Maria Lucia Nella. Sono tante, tantissime, e alcune di loro anche di classi medio-alte. Donne del sud Italia che fanno la guerra, subito dopo l'unificazione, che affiancano gli uomini in una cosa da uomini, nel sud, nell'ex regno delle due Sicilie così arretrato, dove la donna o stava chiusa in casa o se usciva con gli occhi per terra. Com'è sta storia? Le brigantesse. I briganti. Mi ricordo da bambina c'era tutto un immaginario legato ai briganti. La casa dei briganti, la torre dei briganti, la grotta, il bosco dei briganti, il tesoro. Ma che tesoro? I tesori dei briganti. Le monete d'oro che Giovanna gli ha trovato che zappava in dall'orto. E Cumba Ciccillo, in un muro della cantina non sai che ci ha trovato. Non faci dei briganti! Si raccomandavano le mamme con noi bambini perché non fossimo scostumati. Ma chi erano questi briganti? Nei libri di scuola, almeno quando a scuola ci sono andata io, poca roba, quasi niente. Un'idio palaria va. I briganti al sud c'erano sempre stati, non è che erano comparsi adesso. Queste bande che compivano rapine, violenze, al sud, ma anche al nord, mi viene in mente il Passator Cortese, non erano certo un fenomeno nuovo. Sta di fatto però che subito dopo l'unificazione d'Italia nel sud si formano qualcosa come più di 350 bande di briganti, tanto che l'esercito piemontese per sconfiggerle è costretto a mettere in campo oltre 100.000 uomini. La strategia di queste bande era attaccare, procurare al nemico le maggior perdite possibili e disperdersi prima ancora che questo passasse al contrattacco. Le bande più temute sono quella del sergente romano di Gioia del Colle in Puglia e quella di Carmine Crocco, detto il generalissimo di Rio Nero in Vulture Basilicata. Crocco fu bracciante, soldato di leva dell'esercito borbonico, disertore, quindi garibaldino, poi brigante per conto dei filo borbonici della Chiesa e alla fine per se stesso. Arrivò a comandare fino a 2.000 uomini, cioè un esercito. Pallavicini, generale dei bersaglieri e suo acerrimo avversario, dovette ammettere di Crocco che era dotato di vere qualità militari. Per 5-6 anni il sud venne arrevotato, sconquassato da queste bande formate da braccianti, pastori, donne, delinquenti comuni, ex garibaldini, ex soldati borbonici che razziavano e depredavano soprattutto le proprietà dei signori locali. E sì, perché i briganti ce l'avevano coi piemontesi, ma ce l'avevano da sempre anche coi galantuomini locali. complesso questo brigantaggio, contraddittorio, sì, perché i briganti furono appoggiati dal popolo che loro vedeva i paladini dei propri diritti, delle proprie esigenze, le più elementari, ma i briganti furono anche fiancheggiati dai filoborbonici che speravano in tutto questo casino di poter riportare il re Franceschiello sul trono. E la Chiesa? Oh, la Chiesa li foraggiò alla grande, perché da questa unità d'Italia la Chiesa che cosa ne aveva avuto se non espropri di terreni e di edifici? Basti pensare che un terzo dell'intero patrimonio di un'isola come la Sicilia era in mano al clero. Dal pulpito un prete arrivò a tuonare: «La Madonna ci deve fare il miracolo di cacciare fuori dal regno questi usurpatori!» E chi erano questi usurpatori se non i piemontesi? E come spesso succede in periodi di grande caos, di grande confusione, la Madonna cominciò ad apparire. E è apparsa la Madonna di qua, è apparsa la Madonna di là, e sempre che piangeva questa Madonna. Ma perché tutto questo casino? Come mai tutta questa gente prende il fucile? Si avevano accolto Garibaldi a braccia aperte, avevano ingrossato le file dei 1000, arrivando a 2000, 3000, c'è chi dice addirittura 50.000, perché l'ha detto Garibaldo che la terra, proprietà di tutti, deve essere! E ci avevano creduto che la loro finalmente sarebbe stata una vita da cristiani e non da bestie, da cafoni, che in capo a tutto c'è sta Dio, lo patrone Verucilo, poi c'è sta lo principe di Torlonia, lo padrone della terra, poi ci stanno le guardie dello principe, poi ci stanno i cani delle guardie dello principe, non ci sta più nulla, poi ancora nulla, poi ancora nulla, poi ci stanno i cafoni. E adesso, che c'era l'Italia unita a garantire a questi cafoni che sarebbero venuti prima del nulla, questi prendono il fucile. Ma perché? Unicchio per l'aria va. Forse perché capirono subito che erano nuda anche per questi nuovi governanti. E poi sti qua parlavano una lingua che erano stranieri. Uè, ma snap, ragazzino! Com'è che su quelle scarpe? Lo sai che sono scarpe dell'esercito italiano? Scusa, signor, io non ho già capito. Lei prese a un soldato piemontese, ne? Signor, scusa, ma io non stavo capendo. Sei un piccolo brigante, ne? Se non mi rispondi ti faccio passare per le armi. Le scarpe! A chi le hai rubate le scarpe? Ah, le scarpone! No, signore, non ha già rubate, no, vi giuro. Vi giuro sopra la Madonna di Veggiano. No, signore, era vicino a Umara e c'era un morto acciso, signore. E io era scout, signore, ed era morto e non ne servivano più. E allora me l'ha già pigliato, ma vi giuro, signore, non ha già rubate! Puntate! Non ha già rubate, vi giuro sopra la Madonna! Fuoco! E mo non ne servivano manco più a Ido, le scarpe. Perché presero i fucili? E forse perché a Bronte, in Sicilia, sì, Bronte, i pistacchi di Bronte, Nino Bixio, braccio destro di Garibaldi, sì, Vico Bixio, Largo Bixio, Piazzale Bixio, dopo un processo sommario, fece fucilare dei liberali che avevano preso un po' troppo alla lettera i proclami di Garibaldi, erano un po' troppo liberali. Dopodiché fece affiggere sui muri di tutto il paese, con noi poche parole. O rimanete tranquilli, o noi, in nome della giustizia della patria nostra, vi distruggiamo come nemici dell'umanità. Perché presero i fucili? Forse perché adesso, al contrario di prima, la leva era obbligatoria e durava ben 5 anni. E quando Piccingan t'hanno levato lo verazzo più giovane da una famiglia, com'è a cambio c'è sta famiglia? E di questa leva, poi, tanti di questi ragazzi non ne sapevano nemmeno niente, dunque, senza saperlo, diventavano disertori. E in diversi paesi, come il mio, a Latronico, in Basilicata, tanti di loro furono fucilati sul posto, quando non stivati in galere, in grotte, o come a Potenza, nei sotterranei di un'antica chiesa, dove morirono per asfissia. Queste chiese di Potenza. perché presero i fucili. E forse perché prima amo finito con tu porci dei Borbone, amo finito caschi ave tu. E invece adesso, oh, ma sto Manuele è peggio di un Borbone, ma che vuol da noi, un cuorio? Ma quante cazzo di tasse ne sta mettendo? Almeno con le Borbone da 500 anni le tasse non sono mai aumentate. E invece adesso, nel giro di pochi mesi, altro che se le tasse erano aumentate. Perché presero i fucili? E forse perché le terre confiscate alla chiesa, sì, gli vennero pure distribuite, ma queste non riuscivano a pagare le tasse come facevano a pagare le terre, che dunque venivano messe all'asta. E chi se le comprava queste terre? I nobili e i borghesi, che nel frattempo non erano più borbonici, no, no, adesso erano liberali. Forse perché erano costretti come prima, più di prima, a buttare il sangue sulle terre degli stessi di prima, forse perché erano sempre loro, sempre gli stessi, a gestire la cosa pubblica per i loro privati interessi. Forse perché tutto era cambiato perché non cambiasse niente, se non in peggio, dai gattopardi agli sciacalli. Forse perché, come diceva Crocco, o fatto è sempre lo stesso, è loro e noi, chi tiene e chi non tiene, ma la libertà non è cangia padrone. Forse perché amo cagnato in un re, conato un re. Cassutta andast un ferno, poveretti, a noi siamo condannati a tirannia. Camocca di lo lupo, solagnetti, ai chiangiti, ni chiangiti, oi mamma mia. Ca ogni nazione chi a sta terra sbarca si diverti con noi sembra la turca. E sia così ni secuta la barca, o meglio caninissimo alla furca. Meglio caninissimo alla furca. Appena fatta l'unità d'Italia, nel sud ci fu una vera e propria guerra civile, una delle più sanguinose della storia del nostro paese. I briganti razziavano e depredavano i villaggi e sterminavano i patrioti liberali. I soldati incendiavano e saccheggiavano i villaggi ed eseguivano fucilazioni di massa. Ma questo brigantaggio era duro da estirpare. Allora il governo diede pieni poteri al generale Enrico Cialdini. E Cialdini trattò addirittura con la camorra, che, a differenza dell'andrangheta, già c'era, come già c'era Cosa Nostra in Sicilia. Mafia e camorra l'Italia l'hanno vista nascere, ma poi dopo sono cresciute insieme. Insomma, Cialdini nominò alcuni camorristi delegati di polizia. Si giustificò dicendo: «Per ora non possiamo farne a meno, poi li spasseremo via». Era Emiliano Cialdini. Così come pure Emiliano era il ministro delle infrastrutture Lunardi, che qualche anno fa invece disse: «Mafia e camorra ci sono sempre state, sempre ci saranno, dobbiamo imparare a conviverci». Ma nemmeno la camorra bastò contro il brigantaggio. E Cialdini trattò addirittura con la camorra, che a differenza dell'andrangheta già c'era, e come già c'era Cosa Nostra in Sicilia. Beh, diciamo che mafia e camorra l'Italia l'hanno vista nascere e poi dopo sono cresciute insieme. Cialdini, dicevamo, nominò alcuni camorristi delegati di polizia. Si giustificò dicendo: «Per ora non possiamo farne a meno, poi li spasseremo via». Era Emiliano Cialdini. Come pure Emiliano era il ministro alle infrastrutture Lunardi, che invece qualche anno fa disse: «Mafia e camorra ci sono sempre state, sempre ci saranno, dobbiamo imparare a conviverci». Ma nemmeno la camorra bastò contro il brigantaggio. Ma Cialdini era un generale duro, forte, duro, duro come il marmo. Sì, il marmo di tutti i busti che lo riproducono in giro per l'Italia. Ci provò addirittura con la scienza, sì, l'antropologia criminale, le teorie di Lombroso che avere le mandibole grandi, gli zigomi sporgenti, i canini forti, le arcate sopraccigliari cespugliose e prominenti, tratte marcate, insomma, come buona parte dei meridionali, significava essere un brigante. Sì, perché quei tratti per Lombroso erano segno non solo di una inferiorità congenita, ma anche di una disposizione innata alla delinquenza. Le idee di Lombroso dettarono legge per un bel po' in Italia e alimentarono fortemente la teoria razziale della inferiorità scientifica del mezzogiorno, perché l'intelligenza decresce da nord a sud. Ed è da qui poi che nascono quei tanti stereotipi coi quali continuiamo a fare i conti. Bologna, anni 80, facevo l'università. Accompagnai un'amica di Lodi a vedere una stanza da prendere in affitto. Dovetti stare muta tutto il tempo perché la signora, ah beh, se è di Lodi va bene, ah no, perché io affitto solo a studenti da Firenze in su, eh? Ah no, perché i marocchini, i terroni sono sporchi, poi mi piantano il basilico nella vasca da bagno. Io adoro Bologna, la ritengo la mia città d'adozione, ma soccia, c'erano anche questi bolognesi qua. Ma neanche col razzismo Cialdini ce la fece a sconfiggere i briganti. E allora? E allora, a mali estremi, estremi rimedi. 7 agosto 1861, Ponte Landolfo, provincia di Benevento. È la festa di San Donato, patrono del paese. C'è tantissima gente e tanti sono di Casalduni, il paese vicino. Nel pomeriggio, ai pochi casaldunesi rimasti a casa, arriva la notizia che a Ponte Landolfo, durante la processione, è arrivata la banda del brigante Giordano, ha strappato le bandiere dei Savoia e ha rimesso quelle dei Borbone ed è stato proclamato un governo provvisorio. Allora i casaldunesi si dirigono alla caserma della Guardia Nazionale, scardinano l'ingresso, si impadroniscono delle armi e distruggono anche loro gli stemmi dei Savoia. 11 agosto. Un ufficiale, 40 bersaglieri e 4 carabinieri mandati nella zona a riportare l'ordine vengono massacrati dai briganti appoggiati dalla popolazione. Questo l'ordine di Cialdini. Tranne vecchi, donne, bambini e infermi, fucilate tutti. Di Ponte Landolfo e Casalduni non rimanga pietra su pietra. 14 agosto. Prime luci dell'alba, dormono ancora tutti. I bersaglieri, al comando del colonnello Piere Leonoro Negri, prendono d'assalto Ponte Landolfo e uccidono giovani, vecchi, donne, bambini e infermi. Tante ragazze, prima di essere uccise, vengono anche stuprate. I soldati si impossessano di denaro, oro e altri oggetti di valore. Profanano la chiesa madre, rubano i doni votivi e la corona d'oro della Madonna. Poi, dopo la mattanza, il paese viene dato alle fiamme. Anche Casalduni viene rasa al suolo, ma per fortuna la gente è stata avvertita e tanti sono riusciti a mettersi in salvo. Terminato il massacro, il colonnello Negri telegrafa Cialdini. Ieri mattina all'alba giustizia fu fatta contro Ponte Landolfo e Casalduni. Essi bruciano ancora. Sul numero dei morti ancora si discute. Uno dei pochi che in Parlamento denunciò l'accaduto, anzi, era persino andato di persona a vedere cos'era successo, fu il deputato Giuseppe Ferrari, milanese. «Se la vostra coscienza non vi dice che state sguazzando nel sangue, io non so più come esprimermi!» E pretese una commissione d'inchiesta. L'inchiesta fu fatta circa 2 anni dopo, soprattutto per calmare l'indignazione delle nazioni estere, già all'epoca l'Europa ci bacchettava, che avevano appreso con orrore di questa come di altre rappresaglie. E l'inchiesta finì che i materiali furono occultati e dispersi tra i vari ministeri, i documenti dell'esercito secretati in gran parte o distrutti e i colonnelli che avevano guidato le stragi, pardon, le operazioni, decorati al valor militare. Se credete adesso che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Chiusa l'inchiesta, nel 1863, con 174 voti a favore e 33 contro, il governo emana e applica per ben 2 anni una legge marziale. La legge Pica. Pica, dal nome del deputato incaricato a stenderla, Giuseppe Pica, abruzzese. Può dirci che i meridionali non sono i peggiori nemici del meridione. Sì, perché per ben 2 anni nel sud viene dichiarato lo stato d'assedio, vige una vera e propria dittatura militare. Basta soltanto il sospetto di essere un brigante, parente, amico, conoscente di un brigante per essere giustiziati, senza processo, senza difesa, senza tutte queste formalità. Per ogni brigante arrestato o ucciso vengono addirittura messe delle taglie. Chi viene trovato con un'arma qualsiasi, fucilato immediatamente. Quindi anche un contadino che va nei campi con la falce, il coltello, l'accetta. Proibite le provviste, proibito andare a caccia, proibito fare la legna nei boschi, perché nei boschi ci sono i briganti, gli puoi portare da mangiare, gli puoi portare delle informazioni. Naturalmente, a morte chi insulta il re Savoia, il suo ritratto, il suo stemma, la bandiera nazionale. Pensare che qualche anno fa c'è stato chi voleva usare il tricolore come carta igienica e costui è stato pure un ministro della Repubblica. Nelle province che la legge Pica definisce infette, chiunque può fare accuse, anche senza fondamento, quindi anche per consumare un'antica vendetta. Ecco perché la legge ha anche effetto retroattivo. È la carta vincente e la promessa di indulgenza ai pentiti. Soprattutto la legge Pica stigmatizza il concetto di responsabilità collettiva. Per i reati del singolo ne risponde tutta la comunità. E dunque il diritto di rappresaglia viene legittimato e invece che straordinario, come nel caso di Ponte Landolfo, diventa strumento ordinario. In quegli anni nel sud il colore che predominò fu il rosso delle camicie di Garibaldo, il rosso del tricolore, ma soprattutto il rosso di tutto il sangue che venne versato. Briganti denudati, evirati, decapitati, i cadaveri lasciati imputridire nelle pubbliche piazze, soldati piemontesi crocifissi alle porte delle chiese, colonne di profughi in marcia per mettersi in salvo. Se stavi coi piemontesi ti ammazzavano i briganti, se stavi coi briganti ti ammazzavano i piemontesi, i morti furono centinaia di migliaia, più di tutte e tre le guerre d'indipendenza messe insieme. Davanti alla commissione d'inchiesta sul brigantaggio in Parlamento, il generale La Marmora affermò: «In 3 anni abbiamo fucilato 7.151 briganti, altro non so e non posso dire». Tantissimi ex soldati borbonici, poi, che continuavano a dire «Viva il re!» invece di «Viva Vittorio Emanuele», furono deportati in aspri siti alpini, come la fortezza di Fenestrelle, 60 chilometri da Torino, 1.800 metri d'altezza. Pensate, gente della Sicilia a quell'altezza. Nel giro di pochi mesi la maggior parte di loro moriva di fame, ma soprattutto di freddo. E comunque, anche per quanto riguarda Fenestrelle, sul numero dei morti ancora si discute. Nel 1961, invece, a Gaeta, con i soldi del centenario si decise di costruire la scuola media nuova. Negli scavi, per gettare le fondamenta, venne fuori una fossa con circa 2.000 scheletri di soldati borbonici e di civili. Si seppellirono le ossa, si richiuse la fossa e sopra ci costruirono la scuola media nuova. Italia, Italia, Italia, la Italia, te fatta la vunnella Italia, te l'è fatta de tre colure, noi siamo rimasta nure, nure come ci ha fatta mamma, scausa nure, morte fam. Italia, la Italia, te fatta lo stivale Italia, te l'è fatta belle e pronte, in coppa c'è sta Torino che conta, c'è sta Torino che conta, e noi siamo l'utà che ponta. Italia, la Italia, te fatta le casette Italia, te le fatte de seta inglese, noi avimmo fatte le spese, pavamma noi da sotto, Emanuele se ne fotte. Italia, la Italia, te fatta la bandiera Italia, la bandiera de tre colore, noi siamo rimasta nura, nure come ci ha fatto mamma, scausa nure, morte fam. Italia, la Italia, Italia, la Italia, Italia, la Italia! 8 anni dopo la spedizione dei Mille, ecco quello che scrive Giuseppe Garibaldi. Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono incommensurabili, essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio. E 2 anni prima di morire aggiunge: tutt'altra Italia io sognavo nella mia vita, non questa, miserabile all'interno, umiliata all'estero e in preda alla parte peggiore della nazione. L'unità che Garibaldi aveva sognato non era quella che vedeva farsi. Lui, i repubblicani, i mazziniani, la liberté, la fraternité, l'égalité, da questa unità d'Italia ne uscivano con le ossa rotte. Se poi pensiamo che l'intento iniziale di Cavour era semplicemente quello di allargare un poco il Piemonte, al massimo fino a Firenze, per questo si era garantito l'appoggio di Napoleone III e gli aveva persino infilato nel letto la escort più famosa dell'epoca, sua cugina Virginia, la contessa di Castiglione. Figurarsi poi se a Cavour gliene importava di Roma capitale. Importante però era il controllo dello Stato Pontificio, una libera chiesa in un libero Stato, con un Papa che pagasse le tasse a Torino. Il Sud poi. Ma il Sud per Cavour manco esisteva, uno che in tutta la sua vita non oltrepassò Firenze. Ma dal momento che c'era stato chi, Garibaldi appunto, aveva fatto il lavoro sporco di annetterlo, questo Sud l'aveva lasciato fare. Anzi, ne approfittò per tessere le sue trame internazionali. Non a caso era chiamato il grande tessitore. E già, perché alla Francia, all'Inghilterra, il controllo del Sud interessava, e come? Beh, all'Inghilterra le zolfatare in Sicilia, fermare la flotta borbonica perché stava crescendo un po' troppo. E alla Francia, beh, insomma, questo bel pezzo di stivale nel bel mezzo del Mediterraneo è da sempre punto strategico fondamentale. Vediamo ancora oggi che succede, no? E quindi quando a Torino si insediò il primo Parlamento italiano, questo benedetto Sud da chi fu rappresentato? Altro che terra e dignità per tutti. La partita la vinsero subito i proprietari terrieri, quelli vecchi insieme a quelli nuovi, quelli che prima erano borbonici e adesso erano savoiardi, e incominciarono a inzuppare biscotto. Il loro era un programma semplice e conciso, con un unico e fondamentale punto: farsi gli affari propri. Ad cadere dignità. Tutto era cangiato perché niente aveva cangiato. La rivoluzione l'avevano fatta soprattutto gli intellettuali, il sangue l'aveva versato soprattutto il popolo, e il nuovo Stato lo faceva la nuova borghesia arricchita a braccetto con l'aristocrazia. Camillo Benso di Cavour era un conte. I democratici poi, erano un po' troppo idealisti, poi non erano riusciti veramente a coinvolgere il popolo. Beh, Pisacane fu ammazzato dai forconi dei contadini, ma da sempre quello che smuove le masse più che le idee è lo stomaco. E Cristina di Belgioioso lo ripeteva continuamente ai suoi amici mazziniani: guardate, guardate che prima di far insorgere un popolo è necessario educarlo, renderlo edotto dei suoi diritti. Ma l'educazione delle masse richiede tempo, cara la mia Cristina. Anni e anni. E all'epoca mica c'era Amici di Giuseppe Mazzini, o l'isola dei famoso, Garibaldi, o il Grande Fratello d'Italia, o meglio ancora, la Giovane Italia 1. Tanti deputati democratici del Sud, poi, che per le loro idee antiborboniche erano stati anni e anni in esilio, ma manco lo conoscevano più questo loro Sud, semmai l'avevano conosciuto. E infine, uno dei più grandi problemi dei democratici, si fa fatica a crederci, ma fu che erano divisi tra di loro: garibaldini, mazziniani, post-mazziniani, federalisti, rottamatori renziani, Enrico Lettiani, giovani turchi, Pippo Civatiani, ma soprattutto non avevano un programma preciso. Il rapporto che si creò da subito tra il popolo del Sud Italia e il nuovo Stato Italia fu, da subito, sì, di profonda sfiducia. Sì, perché questo nuovo Stato c'era, ma non c'era. E si comportò subito, da subito, come uno Stato di fatto e non di diritto. E quindi i meridionali, la loro fiducia, invece che darla a un potere così lontano, così sordo, la rafforzarono e la consegnarono senza riserve al potere più vicino, quello che li aveva sempre sfruttati, che continuava a sfruttarli e che però aveva voce in Parlamento. Dalle mie parti, ancora oggi si usa dire «A casa d'u donna hai a bussa sempre con le piede». Eh sì, perché s'ha da spendere una parola per te, s'ha da fare una raccomandazione a tuo figlio. E o signore, non vuoi portare un capretto, un prosciutto, almeno una forma di pecorino? E se tieni le mani imbecciate, hai a bussare per forza con le piedi. Insomma, il clientelismo, già in uso da secoli, rimase la prassi. Anche perché questo nuovo Stato ci tenne subito a mostrare la sua lontananza. Cavour, l'abbiamo già detto, morì nemmeno 3 mesi dopo la proclamazione del regno. Bettino Ricasoli, suo successore, non conte ma barone, mise in atto il programma di Cavour, cioè l'applicazione del modello organizzativo e amministrativo del Piemonte su tutto il territorio nazionale. Tra parentesi, rese nazionale anche il decreto sulle maison de tolérance, le case chiuse, fortemente voluto da Cavour, questo emendamento. Eh sì, perché Cavour era un grande tessitore, ma anche un grande puttaniere. Insomma, Ricasoli, anche se toscano, piemontesizzò l'Italia. Il menù fu bagna cauda per tutti. E pazienza, se tu voliva la pizza, capo marò l'angoppa. Ma il Sud com'era prima dell'unità? Era veramente così misero e arretrato come ci hanno sempre detto? I piemontesi, e non solo loro, che liberarono il Mezzogiorno dai Borbone, ne parlavano, lo descrivevano come una landa desolata. Carolissima mave natanna, quanta cose che vive da me, quanta cose che vive da me. La Carolì della canzone è Maria Carolina d'Asburgo, regina delle due Sicilie alla fine del Settecento, moglie di Ferdinando di Borbone, un re Lazzarone. Lazzarone non perché non avesse voglia di fare niente, sì, pure quello, ma Lazzarone perché gli piaceva stare coi Lazzari, la gente del popolo. Parlava sempre napoletano, c'è chi dice addirittura che l'italiano non lo conoscesse granché. Maria Carolina era la sorella della ben più famosa Maria Antonietta, quella delle brioche. Solo che, al contrario di sua sorella, Carolina fu una monarca illuminata, all'avanguardia. Certo, questo prima che Maria Antonietta fosse ghigliottinata, perché poi, quando anche lei si sentì minacciata dai repubblicani partenopei, addio illuminismo, fece addirittura impiccare 3 giovani solo perché avevano sognato di assassinare il re. Però all'inizio fu una monarca illuminata. Ma si pazze già tutte lo sanno, stata buona e governato in e. Sopra Caserta c'è il villaggio di San Leucio, sorto alla fine del Settecento, un villaggio operaio per la produzione industriale della seta. La legge che io vi impongo sia quella di una perfetta uguaglianza. La vera distinzione sia quella che deriva dal merito. Dalla salute di tutti dipende la salvezza di ognuno. Questo è uno stralcio dello Statuto di San Leucio firmato nel 1789 da Ferdinando di Borbone, ma sono parecchi a sostenere che non fu lui a scriverlo, bensì Maria Carolina. Fu lei a volere fortemente la realizzazione di San Leucio, un perfetto esempio di villaggio industriale, dove ogni lusso era vietato, l'istruzione obbligatoria, le vaccinazioni gratuite, ammesso il matrimonio per amore senza interferenze dei genitori, le donne non erano tenute a portare la dote, anzi, era il re a fornire la casa e gli arredi per gli sposi, i testamenti aboliti, i figli maschi e femmine ereditavano in ugual misura e le vedove godevano dell'usufrutto. E tutto questo nel 1789. Sarà per questo che Maria Carolina nella canzone «Ma si zoccole tutte l'usanna, stata buona e governato in e». Era troppo femminista per quell'epoca, poi era pure austriaca. A San Leucio, pensate, c'erano 200 telai per la tessitura della seta e più di 80 per il cotone ritorto, noto per la sua resistenza. Sembra incredibile, ma nella comunità di San Leucio arrivavano emigranti dal Piemonte, dalla Liguria e dalla Toscana. E c'era tutto un regolamento per l'integrazione di questi extracomunitari. Potevano stare lì un anno e se non producevano, ma soprattutto non rispettavano le regole, niente cittadinanza e foglio di via. Tutto si basava sul merito. Ma l'industria della seta mica era solo a San Leucio. Le filande c'erano anche a Napoli, in Abruzzo, a Catanzaro, a Reggio Calabria. Al momento dell'unità, a Reggio Calabria, l'industria della seta dava lavoro a circa 3.000 operai, in gran parte donne. E io di queste cose, fino a un po' di tempo fa, non ne sapevo niente. E quando ho chiesto ad amici, conoscenti, ma tu hai mai sentito parlare di San Leucio? San che? Niente. Nessuno ne sapeva niente. La parola industria, io l'ho sempre e soltanto associata unicamente al nord Italia. Cioè, io sono stata ben 3 volte a Crespi d'Adda, patrimonio dell'UNESCO, tra Bergamo e Milano, ma insomma, quando si parla di villaggio industriale in Italia, è Crespi d'Adda, creato dai conti Crespi alla fine dell'Ottocento. E gli amici che ci ho portato, mio fratello, sua moglie, sono architetti, sono anni che li sto affliggendo. Ad venire a vedere, è un villaggio tessile all'avanguardia dalla fine dell'Ottocento. E non sapevo niente di San Leucio. Un villaggio tessile all'avanguardia della fine del Settecento. La Reggia di Caserta, sì, certo, tante volte. Però anche lì, mai che mi fosse venuto in mente di pensare che come faceva una meraviglia del genere, cioè la Versailles italiana, a trovarsi in un posto così misero e arretrato come il Regno delle Due Sicilie. Beh, sì, la solita cattedrale nel deserto, nella landa desolata. Poi ho letto che quando i piemontesi entrarono nella reggia e nel bagno della regina videro il bidet, non sapendo che cosa fosse, lo descrissero nell'inventario come un oggetto sconosciuto a forma di chitarra. Un po' di anni fa una signora lombarda mi chiese: ma voi della Bassa Italia ce l'avete il bidet? Se io avessi saputo del bidet di Maria Carolina, e invece che una risatina imbarazzata e anche un pochettino accondiscendente, lo devo confessare, le avrei risposto: cara signora dell'Alta Italia, Il bidet, è vero, l'hanno inventato i francesi, anche se poi non l'hanno mai usato. Ma chi l'ha imposto in Italia è stata Maria Carolina d'Asburgo, regina delle due Sicilie alla fine del Settecento, e si lavava lei e faceva lavare pure il marito, perché va bene la zarona, ma pure zuzzona no. Ma si zoccola e tutte lo sanno, stata buona e governato in e. Ma l'anda desolata a Cubide. E la certosa di Padula, in provincia di Salerno. Una certosa con centinaia di ambienti. Sì, centinaia. Non esiste in Italia un'altra così. Sì, la certosa di Pavia, meravigliosa, per carità. Ma in confronto a quella di Padula è una dépendance. Cioè, dove il monaco non aveva una cella, no. No, aveva un vero e proprio bilocale. Poi usciva fuori, c'era tutto il suo orto personale. E gli amici del nord che ci ho portato, che ogni volta spalancano gli occhi, rimangono senza parole. E anche lì. Non mi è mai venuto in mente che come faceva ad esserci una struttura così, una landa desolata, in un posto così misero, arretrato come il regno delle due Sicilie. E vabbè, la chiesa ha sempre avuto grande potere, che è vero, ma è vero anche che la chiesa, specie questo tipo di strutture, le ha sempre volute in zone che tanto misere e arretrate non lo erano affatto. E tutte le volte che vado a Napoli... Che palazzo reale, che capo di monte, e museo archeologico, e chiostro maiolicato di Santa Chiara, e un Caravaggio di qua, un Luca Giordano di là, il barocco, il Cristo velato, che cammini in mezzo all'arte, in un museo a cielo aperto. Anche lì ho sempre solo pensato che questa cavolo di città è stata sempre in mano al malaffare, alla mala politica, alla criminalità, che è vero, ma è anche vero che Napoli, per avere tutto questo popò di patrimonio che ha Napoli, nota in tutto il mondo ormai solo per la monnezza, avrà avuto anche un grande passato, no? Ho cominciato a studiare, a informarmi, a cercare, a indagare, a confrontare le fonti, a smanettare su internet, e poi capisci perché in tanti paesi del mondo internet è vietato, e ho scoperto tante cose, cose che non sapevo, che in tanti non sapevamo. Ho scoperto che Napoli, prima dell'unità, è stata la prima città in Italia ad avere l'illuminazione a gas e il primo esperimento di luce elettrica a Capodimonte. Ho scoperto che a Napoli, proprio a proposito della monnezza, già 200 anni fa, già si parlava di raccolta differenziata. Ecco che cosa ordina ai napoletani nel 1832 il prefetto Gennaro Piscopo. Tutti i possessori, o fittuari di case, di botteghe, di giardini, di cortili e di posti fissi o volanti, avranno l'obbligo di far spazzare la estensione di strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione, botteghe e cortile. Questo spazzamento dovrà essere eseguito in ciascuna mattina prima dello spuntar del sole, usando l'avvertenza di ammondicchiarsi le immondezze al lato delle rispettive abitazioni e di separarne tutti i frantumi di cristallo o di vetro che si troveranno, riponendoli in un cumulo a parte. Ora, sul fatto poi che queste norme fossero realmente rispettate, beh, questo è un altro paio di maniche, ma già si parlava di differenziata nel 1832. Cioè, io vorrei capire come mai siamo arrivati al 2014 e continuiamo ancora e solo a parlarne. Ho saputo che Napoli, prima dell'unità, era la terza città d'Europa dopo Londra e Parigi, che cresceva in altezza come New York, la prima in Italia a portare l'acqua corrente nelle case, la prima per numero di tipografie, si leggeva a Napoli, il maggior numero di conservatori, di teatri, il San Carlo era noto in tutto il mondo. Ho saputo che la landa desolata del sud, prima dell'unità, ebbe vari primati. Il primo telegrafo elettrico, il primo osservatorio astronomico, il primo osservatorio sismologico e meteorologico, la prima ferrovia, Napoli-Portici. La flotta navale era terza al mondo e i suoi cantieri a Castellammare di Stabia, primi nel Mediterraneo. A Castellammare fu costruito il primo transatlantico che collegava Napoli a New York. il primo ponte sospeso in ferro sul fiume Garigliano. Il ponte sullo stretto di Messina se ne parla da quanti anni se ne parla? Per il momento c'è soltanto il plastico per la gioia di Bruno Vespa e milioni di euro buttati da un ponte che non c'è. Ho saputo che i Borbone avevano creato l'amministrazione generale delle bonificazioni, una sorta di ministero dell'ambiente, per la bonifica delle zone paludose. Bartolomeo Grasso e Alfan de Rivera, due ingegneri, batterono palmo palmo i territori del sud per ben 40 anni e misero a punto un tipo di bonifica che prevedeva a monte il rimboschimento e a valle la creazione di strade, centri abitati per richiamare le popolazioni e intensificare le colture agricole. Anticiparono insomma il concetto di bonifica integrale, cosa che poi fu subito abbandonata con l'Unità d'Italia. Sì, perché tutto ciò che era borbonico era arretrato, inutile, privo di competenze. Salvo poi ripescarlo, questo modello arretrato, inutile, privo di competenze, oltre 50 anni dopo, quando, dopo aver sprecato un mucchio di soldi, finalmente si capì che non si poteva bonificare il sud come si bonificava la pianura padana. È come se uno... Mi viene in Basilicata, no? Che ne so, a Moliterno, nel comune di Moliterno dove si fa il canestrato, che è un pecorino buonissimo, e dice a uno di Moliterno: senta, lei mi fa il parmigiano reggiano? Ma io ti faccio il canestrato. Ho saputo che nel sud, prima dell'unità, 50 anni prima della Fiat e 40 prima della Breda, sorgeva il più grande complesso metalmeccanico d'Italia, a Pietrarsa, vicino a San Giorgio a Cremano, dove è nato Troisi. A Pietrarsa si producevano macchine e utensili, caldaie, rotaie, cannoni, locomotive, si costruivano i treni e materiali per navi. A Pietrarsa arrivò in visita addirittura lo zar di Russia, Nicola I, che poi la prese a modello per il complesso ferroviario di Kronstadt. E sempre a proposito di siderurgia, in Calabria, attualmente una delle regioni più povere non d'Italia, d'Europa, certo, sempre se non consideriamo il PIL prodotto dall''Ndrangheta, se no è la più ricca insieme alla Lombardia, ma in Calabria, dicevo, esisteva un complesso siderurgico importantissimo che dava lavoro a circa 2000 operai, il complesso siderurgico di Mongiana, vicino Vibo Valentia. A Mongiana si fabbricavano le armi, il famoso schioppo Mongiana, in dotazione all'esercito borbonico. Si produceva ghisa, si lavoravano il ferro e la grafite, la limonite dei giacimenti calabresi, c'erano circa 30 miniere lì intorno. All'interno degli impianti c'era addirittura l'asilo per i bambini delle mamme lavoratrici e c'erano le scuole di formazione per i ragazzi più promettenti. Il prodotto finito era noto per la sua eccellenza. Quando nel sud si vedeva ad esempio una bella ringhiera, quello sicuro è un ferro di Mongiana. Gli stabilimenti di Mongiana furono chiusi poco dopo l'unità, messi all'asta e venduti per pochi spiccioli a un ex garibaldino. Il governo aveva deciso che questo tipo di impianti doveva sorgere vicino alle coste, insomma vicino al mare. In effetti il complesso di Mongiana era un po' troppo all'interno, dentro alle montagne e vicino ai giacimenti. E si pensò bene dunque di fondare una nuova acciaieria, la più grande d'Italia, a Terni, in Umbria, regione notoriamente circondata dal mare. E ho scoperto che nelle lande desolate della Puglia, esattamente dal porto di Gallipoli, partivano per il mondo intero navi cariche di olio d'oliva, il cosiddetto olio lampante, chiamato così perché serviva per le lampade ad olio, appunto. Fino al 1923 a Gallipoli c'erano ancora le sedi dei viceconsolati di tutta Europa, perché quest'olio era molto richiesto per uso industriale. In Inghilterra per ammorbidire le fibre di cotone, le matasse di lana, in Francia, a Marsiglia, per fare il sapone. Arrivavano richieste di quest'olio perché era purissimo, addirittura dalla lontana Russia, per alimentare le lampade per le sacre icone. La sua quotazione veniva stabilita giornalmente alla borsa di Napoli E quando poi non servì più all'industria, divenne quell'olio alimentare che tutti quanti conosciamo e apprezziamo ancora oggi. E la Puglia, tutte queste distese di ulivi, ma mica è sempre stata così la Puglia. Il tipico paesaggio pugliese è così soltanto dalla fine del Settecento, perché è alla fine del Settecento che in Puglia vennero piantati tutti questi ulivi. E ho saputo che nel regno delle due Sicilie, oltre al Ministero dell'Ambiente, esisteva anche una specie di Ministero dello Sviluppo, il Reale Istituto di Incoraggiamento per la Crescita Industriale. Intanto vigeva il protezionismo doganale e poi si favorivano le imprese straniere affinché venissero a investire nel sud. Gli si davano gli spazi gratis, le aree per impiantare le fabbriche. C'è da dire che la manodopera costava molto meno che a casa loro, ma fu così che nel mezzogiorno arrivarono imprenditori francesi, inglesi, svizzeri, belgi. Nella valle dell'Iri, vicino a Frosinone, si faceva la carta. C'erano ben 9 cartiere, e tra queste la più importante d'Italia, la cartiera Lefebvre, che esportava nei maggiori mercati europei e dava lavoro a migliaia di operai. La carta. Ma per me la carta è stata sempre quella di Fabriano, che cosa ne sapevo io che nel sud facevamo pur la carta? E sempre in quella zona, tra Arpino, Isola Liri e Sora, altre migliaia di persone lavoravano nel distretto della lana, che era ritenuta superiore a quella francese e addirittura a quella inglese. E ho scoperto che nelle zone di Torre Annunziata e di Gragnano la pasta era già un'eccellenza, come pure un'eccellenza erano gli agrumi, che solo dalla fine del Settecento furono piantati sulla costiera amalfitana, sul Gargano, nelle campagne di Reggio, nella piana di Palermo, e che quindi soltanto da allora divennero terre di arance e limoni. E arance e limoni, insieme alla pasta, sono tra le poche cose che ci sono rimaste, perché tutto il resto, nel giro di pochi decenni dopo l'unità, industrie grandi e piccole sparirono quasi del tutto. E per finire, ho scoperto che il regno delle due Sicilie, al momento dell'unificazione, possedeva oltre 2/3 di tutto l'oro di tutti gli altri stati della penisola messi insieme. Stessa cosa per il denaro in circolazione. E ad affermarlo è il lucano Francesco Saverio Nitti, capo del governo nel 1919 e convinto sostenitore dell'unità, quindi super partes. Insomma, al contrario di quello che pensano ancora in tanti, per questa unità d'Italia il Sud mise la sua parte. E che parte? Non mise certo gli spiccioli. E io, e tanti altri come me, tutte queste cose non le sapevamo. Noi non sapevamo. Mo ca saccio ca tutto lo sanna, stata buona e governato in e. Quando chiedi agli storici: scusate, ma voi tutte queste cose le sapevate? Ti fanno: ma sì, insomma, non sono cose che si sanno. Ma se sono cose che si sanno, come mai noi non le sapevamo? La storia la scrivono i vincitori. Ora però, alla luce di quanto detto, sembrerebbe che il Sud prima dell'unità fosse uno stato industrioso, all'avanguardia, progredito. Beh, insomma, non è proprio così. O perlomeno non è proprio solamente così. Insomma, non è che siccome ci hanno sempre detto che tutto era nero, mo all'improvviso tutto diventa bianco. A landa desolata, mo diventa l'Eldorado. Beh, l'abbiamo già detto. Il regno delle due Sicilie, al momento dell'unità, era il più grande della penisola. Ed era una realtà complessa, articolata. Beh, già il nome, due Sicilie, poi ce n'era una sola. Di sud, invece, non ce n'era uno solo. Di sud ce n'erano tanti. E il sud, quello più interno, eh sì, era una landa desolata. E va bene Napoli, Palermo, Bari, Catania, ma centri urbani, degni di questo nome, tranne qualche eccezione, non ce n'erano. Le strade, ma quali strade? A parte qualche mulattiera, strade non ce n'erano. E i Borboni avevano privilegiato le vie marittime. Le industrie, sì, tutte quelle di cui abbiamo parlato, ma anche altro, ma interessarono soltanto alcune zone. Per il resto esisteva solo e unicamente il latifondo. La gente era analfabeta, malnutrita, moriva di malaria, viveva in villaggi sparuti, isolati, lontani da Dio e dal mondo, come la mia Basilicata. Adesso la si fa cost to cost, ma all'epoca, in questa terra oscura, senza peccato e senza redenzione, dove il male non è morale, ma è un dolore terrestre che sta per sempre nelle cose. Cristo non è disceso. Cristo si è fermato a Eboli. E se questo, Carlo Levi, lo dice durante gli anni del fascismo, ma figuriamoci come poteva essere nel 1861. La Basilicata, ma non solo. Il Molise, l'Abruzzo, l'interno della Calabria, erano terre povere, aspre, impervie, inospitali, ignorate da qualsiasi sviluppo. E però, ignorate da qualsiasi sviluppo, continuarono ad esserlo purtroppo anche nei decenni successivi all'unità. Non solo. Insieme a queste lande desolate iniziò ad essere ignorato tutto il Mezzogiorno. Insomma, quel sud che prima dell'unità stava bene, dopo cominciò a stare male. E quel sud che prima stava male, dopo stette peggio. E la gente cominciò a partire. Cosa che, pur vivendo ai limiti della sopravvivenza, non aveva mai fatto prima. L'emigrazione, l'esodo epocale che riempì di terroni Nuova York, New Jersey, San Paolo do Brasile, Buenos Aires, cominciò dopo l'unità d'Italia. O sole si ne vai, o sole si ne vai. O sole si ne vai, ma dimane torna. Se mi ne va io, se mi ne va io, se mi ne va io, non torno più. Le disparità tra nord e sud, al momento dell'unificazione, erano poca cosa, non erano di chissà quale entità. La distanza sul piano industriale non era così rilevante come lo sarebbe diventata in seguito. In alcuni settori, come quello metalmeccanico, e l'abbiamo visto, il sud non era affatto in svantaggio, anzi, lo squilibrio vero non era tra nord e sud Italia, ma fra l'Italia e la Francia, la Germania, l'Inghilterra, paesi in quel momento in piena industrializzazione. Insomma, 150 anni fa l'Italia era un paese povero, arretrato. Adesso pure. 150 anni fa gli uomini che governarono l'Italia non furono certo dei geni dell'economia. Insomma, si può cominciare a parlare di industrializzazione in Italia, ma soltanto alla fine dell'Ottocento, quando finalmente ci fu una politica protezionistica per un'economia fondata non solo sull'agricoltura, ma a quel punto chi se ne avvantaggiò fu soltanto il nord-ovest. Beh, l'industria meridionale ormai era fuori gioco, e perché certo, fatta l'unità a Torino, per non essere da meno degli altri paesi europei che applicavano un'economia liberista, si decise che nel sud le tariffe del protezionismo borbonico andavano abolite. E quindi molte industrie del sud, esposte di colpo alla concorrenza esterna, chiusero. E l'abolizione di Napoli capitale, niente più corte, niente più esercito, ministeri, zecca, la chiusura di tantissimi uffici, tutto questo portò al crollo di tutto un indotto economico. Non essendoci più agevolazioni, capitale dall'estero non ne arrivarono più. Per più di 9 anni, poi, i presidenti del Consiglio furono settentrionali e l'industria del Nord riuscì più facilmente ad ottenere le commesse statali. Per la sua collocazione geografica, poi, il Sud mica godeva di quella vicinanza con nazioni in pieno sviluppo, una vicinanza che per una Lombardia, una Liguria, un Piemonte significava scambi commerciali, di capitali, di operai, di tecnologie. Il Sud con chi si doveva avvantaggiare? Con la Tunisia, la Libia, la Grecia? È anche vero, però, come dice una mia amica, che in una coppia le cose si fanno in due. E se il Nord agì in questo modo, è perché il Sud glielo permise. O meglio, non il Sud. Chi lo rappresentò? Innanzitutto, la classe dirigente locale, debole e limitata sia progettualmente che organizzativamente. Non parliamo poi della borghesia che si impose. Tutto era all'infuori che un ceto produttivo, come ebbe a dire Francesco Saverio Nitti. La borghesia meridionale è composta in gran parte da avvocati e da medici, di classi che vivono dunque di due calamità sociali, la lite e la malattia. Mancano, fatte pochissime eccezioni, elementi industriali operosi. Il Sud, poi, fu fortemente penalizzato dall'assenza di una veduta collettiva, cosa che invece al Nord era diffusa anche nei piccoli centri, i piccoli consorzi, le cooperative emiliane. Le regioni del centro-nord avevano una lunga tradizione civica dall'epoca dei comuni tardo medioevo, le corporazioni artigiane, le società di mutuo soccorso. Tra i contadini c'era l'aiutarella. La famiglia del Bepi aiutava quella della Delmo per la mietitura, quella della Delmo la famiglia dell'Olmo per la vendemmia. Lo zio di un mio amico di Piacenza dice sempre: «Il mio gutturnio non può essere buono se la vigna del vicino dà un vino scadente, perché la terra è una». Insomma, una cultura, una mentalità fondata sulla solidarietà. Mi duole dirlo, ma al Sud ormai è una cosa che vale su tutto il territorio nazionale, ma al Sud la parola solidarietà troppo spesso ha centrato solo con la mia famiglia, la mia parentela. Ancora oggi, giù, per chiedere a qualcuno chi sei, gli si dice: a chi appartieni? In un sistema latifondistico come quello del Sud, la piazza del paese diventava un ufficio di collocamento dove pochi prescelti ottenevano una giornata di lavoro e dovevano pure ringraziare o signoria che li aveva prescelti, mentre tutti gli altri, beata id, rimanevano a bocca asciutta e con gli occhi pieni di invidia. In una società così poteva mai svilupparsi il concetto di bene collettivo? Come osservò Pasquale Villari, nel Sud troppo spesso si sente io e troppo poco noi. E però i governi di unità nazionale ben poco fecero per creare nel Mezzogiorno la cultura del noi, ma anzi cominciarono a creare la cultura del voi. E se è vero che alla fine dell'Ottocento ci furono anche delle ribellioni, compreso il brigantaggio, e più tardi i fasci siciliani, furono come temporali estivi, e a differenza degli scioperi del centro-nord, non produssero nessun tipo di organizzazione. Antonio Gramsci parlò di una grande disgregazione sociale. E tutto questo, naturalmente, preparò il terreno, anzi, lo concimò a dovere, perché affondassero meglio le loro radici mafia, camorra e 'ndrangheta. Il legame tra gruppi politici e associazioni delinquenziali si sviluppò sempre di più. Sempre più spesso la criminalità organizzata si infiltrò nell'amministrazione della cosa pubblica. Nacque quella che Pasquale Villari, Gaetano Salvemini, Giustino Fortunato e altri chiamarono la questione meridionale. E la situazione non cambiò, né con i vari governi della destra storica, né tantomeno con la sinistra, anzi, con la politica trasformistica di un primo ministro di sinistra come De Pretis, l'alleanza tra i ceti borghesi e produttivi del Nord e i galantuomini meridionali addirittura si rafforzò. Il fatto si è che dal 1861 in poi tutti i governi d'ogni partito hanno visto nel Mezzogiorno d'Italia non un paese da governare, ma un gruppo di deputati da conciliarsi. Questa è un'affermazione del senatore toscano Leopoldo Franchetti nel 1911, quindi a 50 anni dall'unificazione. Al potere del Nord evidentemente conveniva garantire i privilegi dei baroni del Sud per poter contare sul loro sostegno. E per rafforzare questo inciucio, i governi si arricchirono di onorevoli meridionali, a patto che questi fossero garanti, però, rispetto al Mezzogiorno, di una situazione bloccata nell'immobilismo sociale e fondata sul clientelismo politico. Nei primi decenni dello Stato unitario non ci fu un governo che pensò, tantomeno mise in atto, un piano di sviluppo per il Sud, tanto che anni dopo Antonio Gramsci arrivò a dire: il Nord, concretamente, era una piovra che si arricchiva alle spese del Sud. Il suo incremento economico-industriale era in rapporto diretto con l'impoverimento dell'economia e dell'agricoltura meridionale. E dal momento che l'industria non era prevista, a che pro creare le infrastrutture? Quando finalmente si decise di estendere la ferrovia a sud, si cominciò giustamente dall'Africa, realizzando la Massawa-Asmara in Eritrea nel 1887. A Reggio Calabria il treno arrivò nel 1895, a Matera, oggi patrimonio mondiale dell'UNESCO, mai. La stazione c'è, i binari no. Dai dati del 2010... dell'Unione delle Camere di Commercio risulta che il Sud ancora oggi ha il 31% di infrastrutture in meno rispetto al Nord. Ma è a partire dall'unità che la forbice tra Nord e Sud cominciò ad allargarsi e ben presto in Parlamento la questione meridionale divenne la loro e non la nostra e il Mezzogiorno diventò, e lo è tuttora, la palla al piede, il rimorchio, la parte malata del paese da curare e da assistere. Un'alternativa a tutto questo fu andare via, emigrare. In poco più di un secolo, milioni di meridionali abbandonarono le loro terre, le lande desolate. Mannaggia Cristoforo Colombo! Quante volte ho sentito questa imprecazione giù dalle mie parti. E ancora si sente qualche volta. Eh sì, perché l'America si è portata via tantissimi meridionali e Colombo, poveretto, ha la colpa di averla scoperta, questa America. Ma anche se non partono più i bastimenti, l'esodo non è ancora finito. Io sono la prima di quattro figli, nati in Basilicata, tutti e quattro laureati. Io vivo a Milano, mio fratello a Napoli, una delle mie sorelle a Bologna e l'ultima da poco, e con il marito di Avellino a Genova. Mamma e papà sono ancora al paese e ci aspettano per le ferie e le feste comandate. O sole se ne vai, o sole se ne vai. O sole se ne vai, ma dimani torna. Se mi ne va io, se mi ne va io, se mi ne va io, non torno più. E non sapia o sud com'era. E sapia solo com'è. E non tenia orgoglio, non tenia speranza, non tenia dignità. Ma dove vuoi? Ma che vuoi fa? Mo casaccio quido che è stato. Questo è un pensiero che m'aggio formato. Ca questione non è nord e sud. Non è sud e nord, che la questione non è meridionale. La questione sembra la stessa. E loro e noi, chi tiene e chi non tiene. Ma se chi tiene non ci tiene al sud, non capisce che se non c'è il sud, non c'è manco l'Italia. Ma se il sud c'è, come ci può essere e come c'ha da essere, l'Italia vola! Lo spettacolo vivalitalia.it. Noi non sapevamo. Di Egidia Bruno e Marie Belotti. Con Egidia Bruno, canti a cura di Francesca Breschi. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Marco Lorenzi, curatore dell'adattamento e regista dello spettacolo Fester, Il gioco della verità, dal film di Thomas Vinterberg, poi adattato per il teatro, che sarà in Italia, a Torino, al Teatro Astra, dal 31 maggio al 6 giugno 2021. Marco, ben trovato. Grazie, grazie. Ci parli un po' di questo progetto? È un progetto appassionante e stratificato che ha attraversato in maniera curiosa questi ultimi strani 2 anni che sono passati nel frattempo, perché Fester era un progetto in asse di partenza 2 anni fa. Ha subito il travaglio di questo periodo decisamente critico. Credo che gli abbia fatto bene, nel senso che dal mio punto di vista Fester come film, come sceneggiatura originale di Vinterberg, è molto di più di quello che apparentemente sembra, cioè un dramma familiare, ma è un testo potentemente e anarchicamente politico, e quindi le tante domande che un periodo storico come quello che stiamo vivendo in questo momento inevitabilmente fanno sorgere, in qualche modo hanno nutrito, ecco, un progetto come questo. È affascinante andare a lavorare su un precedente che non è un testo teatrale su cur, no? Che non nasce per la messa in scena teatrale. Il precedente è un film cult, no? Vincitore del Festival di Cannes nel 98, primo film del Manifesto del Dogma 95, quindi anche accompagnato da un concetto di rivoluzione formale e estetica nel cinema. Quindi c'erano tutta una serie di presupposti molto forti, molto interessanti, con cui ci siamo dovuti confrontare tutti nella creazione, nella riscrittura, nel lavoro in sala, a partire da me, passando per la mia drammaturga Anne Hirst, che è tedesca, e Lorenzo De Jacopo, che come ha curato il riadattamento, tutti gli attori coinvolti, fortemente partecipi della creazione, e così come anche poi tutti i collaboratori artistici. Portare un'esperienza come Fester a teatro ovviamente sarebbe riduttiva se la riducessimo a una trasposizione a teatro di quello che è il precedente filmico di Vinterberg. Quindi si è trattato proprio di andare a cercare con il linguaggio del teatro, con la grammatica propria della lingua teatrale, degli equivalenti e delle peculiarità tipiche del teatro per raccontare gli stessi archetipi e gli stessi temi che Vinterberg ha sollevato nel suo film, attraverso un linguaggio più vicino a quello del teatro, quindi quello del simbolo, quello della metafora, quello della traslazione attraverso lo spostamento di significati, e andando a giocare, devo dire, anche molto ironicamente con il linguaggio cinematografico. Usiamo molto il video in diretta in questo spettacolo, che è un evento, un evento formale non indifferente, è una bella sfida perché metterà gli artisti e gli spettatori di fronte a qualcosa di difficilmente visto prima a teatro in Italia. Qual è stata la scintilla, l'idea iniziale che ti ha spinto a fare questo lavoro? Il primo innamoramento, proprio innamoramento puro e semplice, è stato quello da spettatore del film. Visto il film, non al cinema perché era troppo più giovane rispetto a quando è uscito al cinema il film, ma una volta visto il film da spettatore ho riportato una sensazione fisica di turbamento misto allo shock, che peraltro, guarda caso, è una delle battute del film, del copione, ecco, sarà uno shock, come se Christian, il protagonista, ci volesse ammonire da subito rispetto a quello che stiamo per andare ad attraversare. Ecco, questa sensazione fisica così forte me l'ha portata subito. si era marcata indelebilmente nel corpo, intravedendo le potenzialità teatrali di un film che è apparentemente naturalistico, ma che poi invece vive di geometrie sghembe, sottili, di metalinguaggi molto interessanti per il teatro. Quindi questo è stato un primo innamoramento di una storia potentissima, cioè di una storia, di una trama fotonica, appassionante, scioccante, incredibile, irrealistica. Poi invece, incominciando ad accarezzare l'idea di portarlo in scena, per chiedermi ovviamente doverosamente perché fossi rimasto così affascinato da Festen e qual era quindi il cosa che poteva essere al centro di una riflessione su Festen a teatro, mi sono accorto di quanti altri livelli, oltre quello della trama bellissima, ci possano essere in Festen. Soprattutto il fatto che dietro alla maschera di un dramma familiare si cela un testo politico potentissimo, una potentissima riflessione sul nostro rapporto individuale e collettivo con la verità e con il potere, e come il nostro rapporto con il potere influenza il nostro rapporto con la verità. Festen è un'opera politica. Festen non parla di una famiglia, parla di una comunità che festeggia i 60 anni di un capofamiglia, potremmo dire un capo tribù se portassimo tutto a livello di favola archetipica, no? Si trova di fronte alla scelta, questa comunità, di proseguire il rito di celebrazione del capofamiglia oppure scegliere un'altra opzione, scegliere di vedere realmente le cose come stanno, scegliere la verità e mettere in discussione lo status quo in cui tutti vivono, in cui questa comunità festante si ritrova, dopo che Christian, il figlio primogenito del festeggiato, fa più o meno a metà del percorso un discorso, apparentemente un tipico discorso da festa, no? Ma che in realtà è un atto d'accusa micidiale sulle colpe passate del padre rispetto ai figli. E questo poi, trasportato su un secondo livello, provoca delle domande politiche molto interessanti e molto potenti. Festen, il gioco della verità, dal film di Thomas Vinterberg, l'adattamento per il teatro, arriva in Italia, a Torino, al Teatro Asta, dal 31 maggio al 6 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento a Marco Lorenzi, curatore dell'adattamento e regista. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Viva il lupo e vi aspetto a teatro a vedere questo spettacolo in cui la gran parte dei personaggi cercano di recitare una commedia e uno di loro cerca di mostrare a tutti che in realtà viviamo una tragedia. Con Ferdinando Vaselli, direttore artistico della 10ª edizione del Festival Storie di Lavoro in provincia di Viterbo dal 3 al 12 giugno 2021. Ferdinando, ben trovato. Ben trovato a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Ci presenti questa creatura? Questa creatura è arrivata alla 10ª edizione e nasce dall'idea di voler portare il teatro laddove il teatro non arriva, ed in particolare nei luoghi di lavoro attivi. E quindi gli spettacoli nell'arco degli anni sono stati realizzati, spettacoli, concerti, eventi di vario tipo, nelle aziende, nei frantoi, nei parrucchieri, nelle falegnamerie, insomma hanno attraversato i luoghi, soprattutto dai luoghi di lavoro della provincia di Viterbo, per raccontare la storia dei luoghi in qualche modo attraverso la trasformazione che può dare un evento artistico, nello specifico un evento teatrale, anche se, come ripeto, abbiamo fatto nell'arco degli anni anche concerti e varie attività. Quest'anno, la 10ª edizione, che spero che abbia una seconda parte verso la fine dell'estate di quest'anno, si pone come obiettivo quello di cercare di creare nuove forme di comunità o comunque di riprendere il discorso dove era stato lasciato, e quindi abbiamo pensato di coinvolgere soprattutto le famiglie, gli attori locali e anche gli artisti in un evento che possa creare comunità attraverso cinque

che sono aperte a tutti, perché il nostro intento è proprio quello di creare una partecipazione attiva del territorio, ma non solo, ma di portare anche gente dall'esterno, in cui comunque la borgata di San Basilio non sia conosciuta soltanto per quello che è la cronaca nera, perché è anche altro. E quindi il nostro intento è quello di portare la gente a San Basilio per fargli vedere che San Basilio è altro. Non c'è paura di entrare in una borgata, ma bensì di esserne fieri, di partecipare e di arricchirla di bellezza. Che ce n'è tanta di bellezza nel quartiere, soprattutto la bellezza sociale e umana, la solidarietà, no? L'evento sarà itinerante all'interno dei lotti, non sono delle postazioni fisse, quindi tutte le esibizioni saranno in itinere e ogni giornata si effettueranno 2 o 3 lotti, poi dipende, perché ci sono alcuni lotti che sono molto grandi e quindi magari nell'arco della stessa giornata si restringe in un unico lotto perché ha una densità e anche un'edificazione molto ampia. E più alla fine ci sarà un evento finale in cui si riuniranno tutte le persone che hanno partecipato ai laboratori e tutti gli artisti che hanno partecipato alle performance itineranti per una piccola festa tutti insieme all'interno del singolo lotto. Ci dai dei riferimenti internet per i dettagli? C'è un evento Facebook, Sambarte in Festival, lo potete trovare tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Centro Popolare San Basilio e comunque ci sarà anche un indirizzo email dove poter scrivere per poter aderire e partecipare ai laboratori, che è sambarteinfestival@gmail.com. Prima edizione di Sambarte in Festival dal 4 al 27 giugno 2021, un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Laura Tonnino. Un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille Federico, grazie, viva il lupo, venite, venite tutti, vi aspettiamo. Siamo all'agenda della settimana teatrale con Simone Nebbia di Teatro e Critica, che ci dirà un po' di cose. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, questa è una settimana molto interessante perché tutti gli spettacoli che avevano debuttato nelle settimane scorse sono arrivati un po' a conclusione, quindi c'è un ricambio per quest'ultimo periodo di teatro a Roma. Piuttosto vario, a dire la verità, quindi andrei subito magari a cercare di scardinare un po' quali sono le varie offerte. Dunque, intanto il Teatro Basilica dal 4 al 6 giugno presenta Ion, scritto e diretto da Dino Lopardo, con Alfredo Tortorelli, Andrea Tosi e Iole Franco. È uno spettacolo che ha vinto il premio In Divenire 2019 ed è la vicenda di Silenzi e Non Detti di due fratelli, quindi tutto ruota attorno al rapporto tra questi due fratelli che hanno una relazione evidentemente con una difficoltà di comunicazione, una difficoltà nell'esprimere, no, quelle emozioni familiari che molto spesso provocano questa sensazione di segretezza nelle relazioni umane, soprattutto quelle più vicine, paradossalmente. Quindi dal 4 al 6 giugno andremo al Teatro Basilica per Ion di Dino Lopardo. Segue il Teatro Vascello domenica 6 giugno alle ore 21, la difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, che è il testo di Alberto Fumagalli, che cura la regia insieme a Ludovica Dauria. In scena ci saranno 3 attori: Francesco Giordano, Giacomo Bottoni e Antonio Orlando. Ne hanno parlato molto bene perché poi lo spettacolo che ha vinto il premio della critica e il premio Fersen e il miglior spettacolo appunto a Roma Fringe Festival, ha vinto se non sbaglio anche Milano, se non vado errato, in cui ho avuto un sacco di buoni stimoli da parte di chi l'ha visto. Ciccio Speranza è un ragazzo grasso ma leggero, ha un'anima delicata, insomma dovrebbe dire che ha un'anima delicata, vive in una provincia dove si sente un po' soffocare, lui però è una sorta di libellula rosa in una teca di plexiglass opaco, così ce lo viene presentato dai due registi, è un sogno troppo grande per poter restare in un cassetto, lui vuole danzare, quindi è attorno ai sogni, alle speranze, ai desideri che si articola alla vita di Ciccio Speranza, questa difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, che andremo a vedere domenica 6 giugno al Teatro. Teatro Bascello, mentre invece comincia questo weekend e andrà avanti fino al 22 luglio la programmazione estiva del Teatro Biblioteca Quarticciolo, ovvero sia TBQ Estate, sempre più fuori, e appunto sarà fuori dal Teatro Quarticciolo, tutto considerato, perché è teatro che non ha spazi esterni, ma viene poi articolato all'interno di alcuni spazi periferici della città. Appunto, il debutto, l'inizio sarà al Parco dell'Energia, all'ex SNIA, poi avremo il Parco Alessandrino, il Parco Modesto Riveglia, vari luoghi, e all'interno ci sarà anche gli spettacoli, gli incontri, i laboratori di fuori programma, il Festival Internazionale della Danza diretto da Valentina Marini, quindi insomma l'offerta è molto ampia. Questa settimana l'inizio però è compiuto e sarà 5-6 giugno al Parco dell'Energia, appunto all'ex SNIA, alle ore 21, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per Psicopompo di Scena Verticale. Ora, si tratta di uno spettacolo scritto e diretto da Dario De Luca, una delle anime di Scena Verticale, compagnia di Castrovilla, di giù in Calabria, e con il suono di Hubert Westcamper, che è appunto un po' uno dei maghi del suono dei tanti spettacoli italiani. C'è un uomo, c'è una donna, sono chiusi in casa e si confrontano sulla morte e contemplano i propri abissi. Ci sono due attori, appunto, Milvia Marigliano e Dario De Luca, che sono dentro un box di vetro e i partecipanti ascolteranno i loro dialoghi tramite delle cuffie. Quindi molto interessante il progetto, sicuramente andrò a dare uno sguardo. Per il programma poi di Fuori Programma, questo è il gioco, e in realtà ne parleremo poi settimana prossima, perché tutto comincerà dall'8 giugno. Al Teatro Torlonia continua la stagione del teatro comico dell'underground romano, ovvero sia Sgombro, il Varietà. Questa settimana saranno due gli spettacoli in scena venerdì 4 giugno con La Bella Bestia di Francesca Sartianesi e Luisa Bosi, uno spettacolo curioso che ferma il tempo e inverte i giorni alle feste comandate, mentre Il Senso della Vita qui invece spiegato al proprio figlio è lo spettacolo che già noi conosciamo e che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato, I 46 tentativi di lettera a mio figlio di Claudio Morici, fra comico e drammatico, biografico e fiabesco. Davvero questa serata, in realtà mi sento di consigliarla, perché Francesca Sartianesi la conosciamo ampiamente, soprattutto per il suo lungo percorso con la Compagnia degli Omini, e per quanto riguarda appunto l'altro spettacolo, Claudio Morici, che attualmente sta vivendo una stagione anche di grande notorietà sul piano individuale e televisivo per Propaganda Live, i suoi video sono ormai su Repubblica.tv stabilmente, però insomma il suo impegno in teatro è sempre notevole e da non dimenticare. Questo spettacolo, anche recensito su Teatro e Critica, è davvero notevole e mi sento di consigliarlo. Per quanto riguarda il Torlonia, c'è anche la stagione dedicata al teatro per le nuove generazioni, dedicato appunto a Roma dalla cura di Fabrizio Pallara, che è anche ideatore delle Fiabe Altrove. Sono quattro fiabe in voce che sono accompagnate da musica dal vivo all'interno della Villa Torlonia, attorno al teatro. Abbiamo già visto gli altri lavori, sempre con Valerio Malorni alla voce e la musica dal vivo di Federico Ferrandina, mentre solo l'ultima tappa resta, che è quella dedicata a Raperonzo, lo sarà sabato 5 giugno alle ore 18. Ma attenzione, perché poi dalla settimana successiva comincerà la rassegna di spettacoli con varie compagnie, insomma, che si occupano di teatro per le nuove generazioni, tra le migliori d'Italia, e io vi parlo dopo essere stato al festival lo scorso weekend, ma già all'infanzia, a Monopoli e Bari, appunto, dove sono entrato di nuovo a contatto con questa realtà del teatro per le nuove generazioni, che è molto molto viva e compone delle creazioni che è bene non sottovalutare. Sempre nell'orbita Teatro di Roma, all'Argentina, giovedì 3 giugno ci sarà Percorrer Migliorque Alza le Vele. È lo spettacolo curato da Roberto Gandini per il laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli, con i partecipanti agli 11 laboratori che sono stati poi realizzati quest'anno, ed è un lavoro che parte da un viaggio didattico artistico all'interno dei versi del Purgatorio Dantesco, la seconda cantica della commedia, insomma, poi quella di mezzo, in cui gli partecipanti al laboratorio e ora in scena vengono accompagnati, no, in una riflessione ampia sui grandi temi del Purgatorio Dantesco, cioè sul vizio, sull'omologazione, sull'intolleranza, la ludopatia, temi diciamo poi declinati appunto sul contemporaneo, con il consumismo, la sessuomania, insomma tutte cose che riguardano il nostro mondo contemporaneo. Mediterraneo, quindi molto interessante il lavoro di Roberto Gandini. Il 3 giugno al Teatro Argentina e poi dal 7 giugno resterà in streaming sui canali social del Teatro di Roma, quindi ci sarà modo anche per vederlo da lontano. Al Teatro India debutta il 2 giugno fino al 6 giugno Campfire, dove comincia l'incendio, l'ultimo lavoro di Dom nell'ambito del progetto produttivo Oceano Indiano, una sorta di fiaba alla rovescia per interrogare i temi appunto del nostro presente, come l'educazione, l'oppressione delle donne e del loro corpo, ma anche l'alienazione del lavoro e le strategie per una rinascita collettiva. Saranno Leonardo De Logu, Arianna Lo Deserto, Valerio Sirna, le anime di Dom, che andranno con altri partecipanti a indagare questi concetti, il concetto di giardino, gli spazi vissuti come reclusione e tutto ciò che era già partito con il progetto radiofonico Nausicaa e adesso in qualche modo torna in una dimensione scenica allestita appunto all'interno del Teatro India per indagare il concetto di confine e l'immagine del giardino come se fosse un rovescio di quella dimensione dell'essere umano in cui il potere consuma i corpi, la soggettività e lo stesso ambiente. Appunto saranno i luoghi istituzionali come il manicomio, la fabbrica, la città, il carcere ad essere messi sotto indagine. Quindi andiamo a vedere un lavoro molto complesso a quanto si presenta dal 2 al 6 giugno con Dom al Teatro India, sarà Oceano Indiano. Per ciò che riguarda invece il Teatro Argentina, c'è da dire che dal 5 al 13 giugno arriva Carmelo Rifici con il suo Macbeth, Le cose nascoste, che è tratto appunto dall'opera omonima di Shakespeare nella riscrittura di Angela De Mattè. Lo spettacolo affonda radici proprio nel rito teatrale per andare a recuperare il passato come fonte di comprensione del presente. Un'opera, quella di Macbeth, che illumina un po' le profondità del nostro io per portare sul palco una sorta di processo psicanalitico. Quindi questa è un po' la lettura che Angela De Mattè e Carmelo Rifici danno del Macbeth shakespeariano e ce la porteranno di fronte agli occhi. Anche qui uno spettacolo che io non ho visto ma che qualche collega mi ha detto essere particolarmente interessante, quindi dal 5 al 13 giugno da non mancare al Teatro Argentina. E con questo abbiamo concluso. Ciao Simone, alla prossima! Ciao a tutti! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.